Remember that the word a, meaning to, is linked to the following article or word for the. This applies also when dealing with the phrase fino a, until or as far as. For example, if you want to say you go as far as the bank, you say va fino alla banca. If you want to say you go as far as the restaurant, you say va fino al ristorante. And if you want to say you go as far as the airport, you say va fino all'aeroporto. Still on the subject of directions, here are some more useful words and phrases. Come al solito. As usual. Come al solito, ascolti l'italiano, poi l'inglese, poi di nuovo l'italiano e ripeta. Attraversare. To cross. Attraversare. Continuare. To continue. Continuare. Girare. To turn. Girare. La piazza. The square. La piazza. La stazione ferroviaria. The railway station. La stazione ferroviaria. La stazione degli autobus. The bus station. La stazione degli autobus. Il museo. The museum. Il museo. Dopo. After. Dopo. Il semaforo. The traffic lights. Il semaforo. Review that new language again, and when you're satisfied that you know it, go on to the next section.